Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Il giovedì di quella settimana, Julius Carp lasciò Lewis allo spaccio di liquori e uscì per dare un'occhiata alla vetrina del negozio di alimentari e vedere se Morris era solo. Carp non aveva messo piede nel negozio di Morris dalla notte della rapina e pensava, inquieto, all'accoglienza che gli sarebbe stata riservata se ci fosse entrato adesso. Per un motivo a lui stesso poco chiaro, Carp desiderava andare d'accordo con Morris e il fatto che il vicino, ma ridotto com'era, continuasse a tenere le distanze, presto cominciò ad angustiarlo. Sì, lo avevano rapinato e gli avevano dato una botta in testa, ma non era certo colpa sua. Lui era stato attento. Perché anche il povero Morris non era stato attento? Perché, quando l'aveva avvertito che c'erano due malviventi in strada, non aveva usato il buon senso correndo prima a chiudere il negozio e poi a telefonare alla polizia? Perché? Perché era un inetto, un disgraziato. Ed essendo un disgraziato, i suoi guai crescevano a mazzi come le banane. Prima l'altro incidente alla testa, poi l'assunzione di Frank Alpine. Carp non era uno sciocco. Gli bastava aprire gli occhi per rendersi conto della situazione quando le cose non andavano per il giusto verso. Conosceva Frank, lo considerava un emerito vagabondo ed era sicuro che avrebbe combinato dei guai. Quel rifugio di mosche e di vermi che era il negozio di Morris non poteva rendere abbastanza per mantenere il garzone. Era una stupida stravaganza da parte del droghiere tenersi Frank una volta rimessosi dall'incidente. Ben presto Carp fu informato da Lewis che non si era sbagliato nel giudicare la situazione. Scoprì che Frank, di tanto in tanto, si comprava una bottiglia del migliore, pagando in contanti, naturalmente. Ma dove li pigliava i contanti? Per giunta, quell'altro scioperato che era Sam Pearl si era lasciato scappare che il commesso ogni tanto attaccava qualche biglietto da $2 al naso di qualche cavallino e il vento se lo portava via. Questo, da parte di un uomo pagato senza dubbio una miseria, portava a un'unica conclusione. Rubava. A chi rubava? Al signor Bober, si capisce, che soldi a ogni modo non ne aveva. A chi altro? Rockefeller sapeva come tener da conto i suoi milioni, ma se Morris guadagnava $0.50, lo perdeva prima di poterlo mettere nella sua tasca bucata. I commessi rubavano ai padroni. Era una cosa naturale. Carp, quando era giovane, aveva rubato al principale, un commerciante all'ingrosso di calzature mezzo cieco. Lewis gli rubava, lo sapeva. Ma questo non lo preoccupava perché Lewis, dopo tutto, era suo figlio e il negozio un giorno, Carp sperava non troppo presto, sarebbe stato suo. Senza contare che facendogli sovente la morale ed effettuando ogni tanto controlli a sorpresa, costringeva Lewis a ridurre i suoi furtarelli al minimo, a una sciocchezza addirittura. La faccenda cambiava se a rubare era un estraneo. Se Carp pensava all'eventualità di avere un commesso come Frank, gli veniva la pelle d'oca. Il fatto poi che la mala sorte fosse appannaggio di Morris voleva dire soltanto che il commesso rubava di più, non di meno. Era sempre pericoloso tenere un giovane goi dove c'era una ragazza ebrea. Questo per via di una legge immutabile che Carp sarebbe stato lieto di spiegare a Morris, risparmiandogli un grosso guaio se avessero avuto occasione di parlarne. Avendo notato che Frank era entrato da St. Pearl e che Morris in quel momento era solo nel retrobottega, Carp si schiarì la gola ed entrò. Quando Morris uscì dal retro e vide chi c'era, per un attimo provò un perfido senso di trionfo, ma poi la presenza di quell'essere tedioso e il ricordo spiacevole delle cattive notizie che avevano sempre fatto seguito alla sua comparsa lo infastidì. Rimase in silenzio, aspettando che il negoziante di liquori, che indossava una giacca sgargiante sportiva e pantaloni di gabardin, insufficienti a dissimulare la protuberanza del ventre o a temperare la stupidità del viso, parlasse per primo. Ma una volta tanto l'attiva lingua di Carp restava immobile, mentre egli, ricordando con imbarazzo i risultati della sua ultima visita, fissava l'appariscente cicatrice sul capo di Morris. Preso da compassione, Bober gli rivolse la parola con un tono amichevole che sorprese lui stesso. «Come va, Carp?» «Grazie, non mi posso lamentare.» Raggiante, tese una mano grassoccia al di là del banco e Morris avvertì a malincuore il peso del grosso anello di diamante che gli premeva le dita. Non sembrandogli cosa assennata, un attimo dopo la loro riconciliazione, uscir fuori con notizie di sciagure concernenti la figlia di Morris, Carpe si premette le meningi per trovare qualcosa da dire e finì per chiedere: «Come vanno gli affari?» Morris aveva sperato di sentirselo domandare. «Bene, ogni giorno meglio.» Carpe corrugò le sopracciglia e chiese con noncuranza: «Com'è possibile? Hai fatto pubblicità sul giornale?» Morris sorrise a quella malinconica freddura. Dove non c'era cervello, i soldi non potevano comprarlo. «Di bocca in bocca», osservò, «si fa la migliore pubblicità. Dipende da cosa dice la bocca.» «Dice», Morris replicò senza vergogna, «che ho un bravo commesso che ha tirato su i miei affari. Invece d'andar peggio d'inverno, tutti i giorni va meglio.» «È il tuo commesso che ha fatto questo?» disse Carp, grattandosi meditabondo una natica. «Piace ai clienti. Un goi chiama altri goim. Clienti nuovi? Nuovi e vecchi.» Carp era esterrefatto. Possibile che Morris non sapesse quel che stava succedendo proprio sotto il suo naso? Immediatamente si rese conto che quella era l'occasione offertagli dalla provvidenza per sbattere fuori per sempre il commesso. «Non è stato Frank Alpine a far andare meglio i tuoi affari», disse con decisione. «È stata un'altra cosa.» Morris abbozzò un sorriso. Come al solito, il saggio conosceva il motivo di tutto quel che succedeva. Ma Carp insistette. «Da quanto tempo lavora qui?» «Lo sai quando è arrivato?» «In novembre.» «E subito gli affari hanno cominciato ad andar meglio?» «Un po' per volta.» «Questo è accaduto», annunciò Carp in tono eccitato, «non perché questo goi è venuto qui. Cosa ne sapeva quello di come si tiene un negozio di alimentari?» «Un bel niente. Il tuo negozio va meglio perché il mio inquilino Schmitz si è ammalato ed è stato obbligato a chiudere per parte della giornata. Lo sapevi?» «Mi avevano detto che era ammalato», rispose Morris avvertendo una contrazione in gola. «Ma gli autisti dicevano che suo padre veniva a dargli una mano.» «Non voglio dire», riprese Carp, «che il tuo commesso non abbia contribuito a farti guadagnare qualche cosa, ma il vero motivo per cui le cose ti sono andate meglio è che quando Schmitz non poteva aprire, alcuni clienti suoi venivano qui. Naturalmente Frank non ti diceva niente.» Pieno di brutti presentimenti, Morris rifletteva a quel che gli aveva detto il negoziante di liquori. «Che è successo a Schmitz?» «Ha una brutta malattia, un disturbo circolatorio, e adesso è all'ospedale. Poveraccio, sospirò il droghiere. Combattuto tra speranza e vergogna, chiese: metterai il negozio all'asta? Carpe gli inflisse un altro colpo terribile. Come sarebbe a dire all'asta? È un negozio ben avviato. L'ha venduto venerdì a due norvegesi dalle idee moderne che lo riapriranno rinnovato la settimana prossima. Vedrai il tuo negozio dove andrà a finire. Morris, lo sguardo annebbiato, si sentiva morire lentamente. Carp si accorse con orrore di aver sparato al commesso e colpito il padrone. Aggiunse in fretta: cosa potevo fare? Non potevo dirgli di mettere il negozio all'asta se aveva l'opportunità di venderlo. Il droghiere non lo ascoltava. Stava pensando a Frank con la viva sensazione di essere stato oltraggiato, ingannato. «Senti, Morris», disse in fretta Carpe, «ho una proposta per il tuo negozio. Prima butta fuori dai piedi quest'italiano che t'ha preso per il naso, poi dice a Helen che il mio Lewis...» Ma quando il fantasma che stava dietro al banco gli mandò degli accidenti in una lingua incomprensibile, Carpe fece marcia indietro, uscì dal negozio di Morris e si rintanò nel proprio. Dopo il primo smarrimento e la prima paura, Morris era giunto alla conclusione che doveva assolutamente vendere il negozio e alle 8 aveva già chiesto a un paio di autisti di passare la voce. Per nessuna ragione, però, doveva privarsi di Frank, anzi, doveva tenerlo per fare tutto il possibile onde evitare che i due norvegesi, riaperto il negozio, riattirassero subito i clienti di Schmitz che ora venivano da lui. Non riusciva a credere che l'aiuto di Frank non fosse servito. Non era poi tanto sicuro che la malattia del tedesco fosse la sola causa della fortuna del negozio negli ultimi tempi. Carp lo diceva, ma da quando in qua si doveva prendere per oro colato quello che diceva Carp? Certo che l'aiuto di Frank era servito, solo non quanto avevano creduto. Ida non aveva tutti i torti, però poteva darsi che Frank riuscisse a tenere qualche cliente mentre Morris non era sicuro di esserne capace. Non si sentiva la forza, l'energia nervosa di resistere solo nel negozio per un altro periodo di crisi. Gli anni l'avevano logorato. Scendendo, Frank notò subito che Morris non era del solito umore, ma era troppo assorto nelle sue faccende per chiedergli cosa lo crucciava. Spesso, dopo che Helen era salita in camera sua, a Frank era tornata in mente la sua osservazione che egli doveva disciplinarsi e si chiedeva perché questa parola gli avesse fatto tanto effetto, perché dovesse risuonargli in testa come un rullo di tamburo. L'idea dell'autocontrollo portava con sé il senso della bellezza dell'autocontrollo stesso, la bellezza di chi sa fare quello che vuole, anche del bene se vuole. E questo sentimento era accompagnato dal rimpianto per il lento indebolimento del suo carattere, in atto da molto tempo, senza che lui avesse mai alzato un dito per evitarlo. Ma adesso, mentre si raschiava la barba dura con un rasoio a doppia lama, decise di restituire poco per volta, fino all'ultimo centesimo, i $140 e rotti che aveva sottratto a Morris nei mesi in cui era stato al suo servizio. Con questo pensiero in testa, Frank aveva scritto la cifra su un foglietto che teneva nascosto in una scarpa. Al diavolo il passato. Sul passato non aveva controllo. Tutto quello che poteva fare era metterne in luce qualche episodio e tacere tutto il resto. D'ora in poi avrebbe pensato soltanto all'avvenire e in avvenire avrebbe scelto la vita che si accorgeva di apprezzare più di quella che aveva vissuto in passato. Avrebbe cambiato sistema e sarebbe vissuto onestamente. Appena fu sicuro che Ida era in camera, Frank entrò in fretta in negozio. Il suo portafoglio conteneva due biglietti, uno da 5 e un altro da $1, e Frank pensò di versare il tutto nel registratore. Sarebbe rimasto con pochi spiccioli, ma non importava, perché l'indomani era giorno di paga. Registrò i $6 e poi, per cancellare la prova di una vendita improbabile, fece scattare il tasto «Nessuna vendita». Allora provò un fremito di gioia per quel che aveva fatto e gli occhi gli si illuminarono. Nel retro si levò la scarpa, ne tolse il foglietto e sottrasse $6 dal totale del suo debito. Calcolò che avrebbe potuto pagare tutto il debito in 2 o 3 mesi prelevando dapprima il denaro depositato in banca, circa $80, e restituendolo poco per volta. E poi, quando avesse terminato quel denaro, rendendo una parte del suo salario settimanale fino a estinguere il debito. Il difficile era rendere il denaro senza far sospettare a qualcuno che gli stesse mettendo nel registratore più di quanto incassava il negozio. Era ancora tutto allegro per quello che aveva fatto quando Helen lo chiamò al telefono. «Frank», disse lei, «sei solo? Se no, fa finta che qualcuno abbia sbagliato numero e riappendi. Sono solo. Hai visto che bello oggi? Sono uscita a fare una passeggiata all'ora di colazione e sembra che sia arrivata la primavera. Siamo ancora in febbraio. Non scoprirti troppo presto». Dopo l'anniversario di Washington, l'inverno perde forza. Senti che profumo meraviglioso c'è nell'aria? In questo momento non lo sento. Esci al sole, disse Helen. È tiepido, una meraviglia. Perché mi hai telefonato? Frank chiese. Mi occorre una scusa per telefonarti? Disse lei piano. Non lo fai mai. Ti ho telefonato perché preferirei vedere te questa sera invece di Nat. Non c'è bisogno che tu esca con lui se non ne hai voglia. È meglio per via di mia madre. Rimanda l'appuntamento. Helen rifletté un minuto e disse che era meglio sistemare la faccenda. Come vuoi, disse Frank. Frank, credi che potremmo trovarci dopo che avrò visto Nat, magari alle 11:30 o al più tardi a mezzanotte? Ti piacerebbe vedermi allora? Si capisce. Ma cos'è tutta questa storia? Te lo dirò quando ti vedrò. Helen fece una risatina. Ci vediamo in Parkway o nel nostro solito posto davanti ai Lilla? Dove vuoi. Il parco va bene. Proprio in quel momento Morris entrò in negozio e Frank riappese. Il droghiere guardò il registratore di cassa e la cifra soddisfacente che vi era segnata gli fece tirare un sospiro di sollievo. Vedendo che Morris dava un'occhiata al registratore alla luce di un fiammifero, Frank si ricordò di essere rimasto con circa 70 centesimi. Avrebbe preferito ricevere la telefonata di Helen prima di rimettere in cassa i $6. Se quella sera pioveva, forse avrebbero dovuto prendere un taxi per rincasare e se fossero saliti in camera sua, poteva darsi che le venisse fame dopo e avesse voglia di una pizza o qualcos'altro. Frank aveva deciso di non chiedere del denaro a Helen. Non era una cosa da fare con una ragazza di cui si è innamorati. Pensò che era meglio prelevare $1 dalla somma che aveva appena versato in cassa. Avrebbe fatto meglio a rendere solo $5 e tenersene uno. Morris guardò di soppiatto il commesso seduto sul divano. Ripensando alla volta che dalla poltrona del barbiere aveva visto i clienti uscire dalla drogheria con le sporte colme, si sentì a disagio. Chissà se mi deruba, pensò. La domanda gli fece paura, perché se l'era posta tante volte senza trovare una risposta sicura. Dallo spioncino vide che una donna era entrata in negozio. Frank si alzò dal divano. Ci penso io. Morris rispose senza alzare gli occhi dal giornale. Beh, io ho qualcosa da mettere a posto in cantina. Che cosa? Qualcosa. Quando Frank andò al banco, Morris scese in cantina, ma non ci rimase. Risalì furtivamente le scale, fermandosi dietro la porta che dava sull'atrio. Spiando da una fessura nel legno, vedeva nettamente la donna e ne udiva gli ordini. Sommò mentalmente i prezzi delle merci che ordinava. Il conto arrivò a $1.81. Quando Frank registrò la somma, il negoziante trattenne penosamente il respiro per un attimo e poi entrò in negozio. La cliente usciva proprio allora dalla porta con la borsa piena. Frank nascondeva la mano sotto il grembiule e nella tasca dei calzoni. Vedendo il padrone, trasalì. La somma registrata era di 81 centesimi. Morris gemette. Frank, per quanto teso e vergognoso, fece finta che tutto fosse in regola e questo fece andare in bestia Morris. Il conto era di $1 in più. Perché hai registrato $1 in meno? Dopo un silenzio penoso, il commesso si sorprese a rispondere. È solo uno sbaglio, Morris. No, tuonò il negoziante. Ero dietro la porta e ho sentito che cosa le hai venduto. Non credere che non sappia quante volte hai fatto lo stesso prima. Frank non riusciva a dir nulla. Dammi $1, gli ordinò Morris tendendo la mano tremante. Angosciato, il commesso cercò di mentire. Lei sta facendo un errore. Sono in credito di $1 dalla cassa. Ero a corto di spiccioli e me li sono fatti dare da Saint-Peur col mio denaro. Poi, per sbaglio, ho registrato $1 invece di nessuna vendita. Ecco perché me lo sono ripreso in questo modo. Non ho fatto niente di male, glielo assicuro. Storie, gridò Morris. Avevo lasciato dentro un rotolo di monete nel caso che ce ne fosse bisogno. Corse al banco, fece scattare il nessuna vendita e mostrò il rotolo di monete. Di la verità. Questo non doveva succedermi, pensò Frank, perché adesso sono un altro uomo. Ero un po' accorto, Morris ammise. Ecco la verità. Pensavo di renderle $1 domani dopo aver preso la paga. Tirò fuori dalla tasca dei calzoni $1 spiegazzato e Morris glielo strappò di mano. Perché non mi hai chiesto $1 a prestito invece di rubarlo? Il commesso si rese conto di non aver nemmeno pensato di chiedere un prestito al padrone. La ragione era semplice. Non aveva mai preso a prestito. Aveva sempre rubato. Non ci ho pensato. Ho fatto uno sbaglio. Sempre sbagli, disse Bober con rabbia. Tutta la vita, sospirò Frank. Mi hai derubato dal giorno che t'ho conosciuto. Lo confesso, disse Frank. Ma in nome di Dio, Morris, le giuro che le stavo restituendo quello che ho preso. Anche oggi ho rimesso nel registratore $6. È per questo che lei ha trovato che erano entrati tanti soldi in cassa dal momento che è salito a fare il sonnellino fino ad ora. Chiede un po' a sua moglie se abbiamo incassato più di $2 mentre lei era in camera. Il resto ce l'ho messo io. Pensò di togliersi la scarpa per far vedere a Morris la cura con cui aveva tenuto nota dei soldi rubati, ma non volle farlo perché la cifra era così alta che il negoziante avrebbe potuto arrabbiarsi di più. «Li hai rimessi nella cassa!» gridò Morris. «Ma è roba mia! Non voglio un ladro qui!» Tolse dal registratore $15 Eccoti la tua settimana, l'ultima. Fammi il piacere di uscire subito dal mio negozio. La sua collera era svanita. Parlava con tristezza. Aveva paura del domani. Mi dia ancora un'opportunità, pregò Frank. La prego, Morris. Aveva un aspetto desolato, lo sguardo spettrale, la barba scura. Morris, che pure era commosso, pensò a Helen. No! Frank fissò l'ebreo. La sua aria grigia e affranta. E rendendosi conto che pur avendo le lacrime agli occhi non avrebbe ceduto, appese il grembiule ad un chiodo e se ne andò.